Siamo con Marco Ceccotti di Nano Egidio per lo spettacolo di letture magistrale Ma con umiltà a Roma, Baracca e Burattini, sabato 15 dicembre. Marco, ben trovato. Ben trovato, che bello, che bello. Sembra Sembra un come ci secolo. siamo mai lasciati, Sì. ecco. Presentiamo il Nano Egidio. Allora, il Nano Egidio che è una compagnia di teatro romana, già siamo qua a Roma, ma anche abbastanza internazionale, soprattutto italiano, con Pupazzi, Burattini e Nani da Giardino. Il nostro capo è un nano da giardino che ci manda i testi, ci fa lavorare. Sono adesso 7-8 anni che battiamo la con qualche capatina nell'ufficiale, però poi torniamo sempre nell'off che è bello, si sta bene, si sta comodi, siamo in tanti, tutti amici, qualche nemico, Questo però si sta bene. spettacolo. Allora, questo spettacolo è un insieme di letture, si chiama Studentesse universitarie cercano appartamento in zona. Non parliamo di studentesse, ma è questo nome che abbiamo utilizzato da anni, no? Si vede un po' da anni in giro per Roma questi flyer con scritto Studentesse universitarie cercano appartamento in zona. E siamo noi che abbiamo fatto la pubblicità. Siamo partiti molto da lontano negli anni e finalmente ci siamo decisi a farlo. È Ok. una raccolta, diciamo, molto legata a Roma, nel senso che comunque sono 15 anni che io, anche Francesco, Simone c'è sempre stato a Roma, sono un po' di cose, è un best of delle nostre scene, scenette che abbiamo scritto nel periodo romano. Partono da storie di Roma, tipo faremo il TripAdvisor delle osterie, nel senso le canzoni, quelle osteria numero uno, Paraponzi Ponzi Po, l'abbiamo adattate, recensite come si può recensire un'osteria o un locale su TripAdvisor, quindi abbiamo messo questa romanità, l'abbiamo messa in ridere, come dire. Quindi sono un'oretta di nonsense, di sciocchezzuole, di comicità, senza tante pretese se non quella di far ridere, e mi hai detto poco. Senti Marco, ma con il Nano Egidio questa stagione come sta procedendo? Allora, questa stagione in pratica abbiamo poche date perché, cioè, ci hanno chiesto di fare vari spettacoli, ci siamo concentrati su vari spazi nostri amici come appunto Baracca e Burattine, e faremo poi una nuova puntata del Nano Egidio, cioè il terzo capitolo del Nano Egidio alla rassegna Serotonina a Stantoreste, fuori Roma, e poi siamo fermi, nel senso non saremo in scena, ma stiamo abbastanza in fermento perché stiamo scrivendo uno spettacolo nuovo, tutti insieme. Questa volta togliamo Burattini, Pupazzi, e giocheremo con le proiezioni, ma a modo nostro. Quindi stiamo scrivendo un nuovo spettacolo che ancora non posso dire quando debutterà, ma in primavera ci sarà una grande novità e faremo questo spettacolo. E poi stiamo scrivendo cose nuove, altre cose nuove, perché, come si dice, sta bollendo in pentola l'acqua. Diciamo, e Ok, l'acqua non è proprio per acqua, ma creatività e opportunità. ci dai tutti i riferimenti per conoscere meglio le vostre attività? Certo, noi siamo molto attivi su Facebook, questo social network, ci trovate con Nano Egidio, cercando Nano Egidio. Abbiamo anche il sito aggiornato, siamo legati alle tradizioni, aggiorniamo i siti, quelli veri, www.nanoegidio.it, venitelo a visitare perché tra poco ci scade il dominio Aruba e quindi se ci viene un sacco di gente a visitarlo, diciamo che ancora vale la pena tenere un sito, quindi www.nanegidio.it. E È poi questo. ci vediamo a Baracca e Burattini questo sabato, ingresso gratuito, uscita a cappello, ci conosciamo lì se volete, se già non ci conosciamo, facciamo una chiacchiera, ci dite le vostre cose, noi ci farla, anche durante lo spettacolo, se volete. Ok, allora ricordiamo l'appuntamento con spettacolo di letture magistrale, ma con umiltà a Roma, al Baracca e Burattini, sabato 15 dicembre. Un saluto e un ringraziamento a Marco Ceccotti di Nano Egidio che sarà in scena. Marco, un abbraccio, un in bocca al A voi, lupo e a grazie, presto. come sempre, grazie, un abbraccio a te e a tutti, ciao.